Inaccettabili, dice il presidente Schifani. Torna libero per motivi di salute l'ex leader di Ordine Nuovo, Concutelli. Confindustria, bene la stabilità della finanza pubblica, ma il piano del governo è deludente. Tremonti lancia un piano europeo per le rinnovabili, apertura anche sull'ipotesi di un nuovo trattato europeo. Brescia, morto il bimbo rom malato di via Orzi Nuovi. Buona giornata da Anna Rita D'Ambrosio e dalla redazione. Ieri le parole del capo dello Stato, oggi la presa di posizione di Schifani. Manifesti affissi a Milano contro i giudici restano in primo piano. In diretta Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno. Un'ignobile provocazione, secondo il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, sulla stessa linea, la seconda carica dello Stato. Occorre fare gesti concreti perché si abbassino i toni e vengano condannate senza se e senza ma queste iniziative, spiega il Presidente del Senato Schifani, che aggiunge: mi aspetto dal PDL che prenda ufficialmente le distanze da questo candidato Roberto Lassini. A dissociarsi dall'autore dei manifesti contro i TM è il sindaco di Milano Letizia Moratti, che ribadisce: la mia candidatura è incompatibile con la presenza di Lassini nella lista del PDL. Popolo della Libertà, che intanto prende oggi ufficialmente posizione. In una lettera al contestato esponente azzurro, il coordinatore Lombardo Mantovani scrive: sono a chiederle il ritiro della sua candidatura presso la segreteria del Comune di Milano. Dall'opposizione si critica comunque il fatto che nessun esponente del governo Berlusconi si sia espresso sulla vicenda. Il PD attacca la Santanchè, che avrebbe tentato una difesa di Lassini. L'Italia dei Valori se la prende con il Premier e lo indica come ispiratore politico dei manifesti. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo, ospite di Alessandro Milan, Marco Alessandrini, figlio del giudice Emilio Alessandrini, ucciso a Milano da Prima Linea nel 1979. Io ovviamente non posso che sottoscrivere in pieno, come per la verità già da qualche tempo ho fatto, le parole del Presidente della Repubblica, che stigmatizzano senza se e senza ma una, diciamo, una scelta, quella di quei manifesti milanesi, davvero fuori luogo e davvero priva di gusto, nonché di ogni, come dire, riflesso storico, perché si tratta di un falso grossolano inaccettabile. La spiegazione a tutto questo me la sono data e credo che ciò sia il sintomo di, come dire, una lotta politica ormai alla deriva, in cui si trasfigura la realtà, in cui, diciamo, si assiste alla destrutturazione dei fatti che scompaiono, perché il paragonare i magistrati alle Brigate Rosse ovviamente è una assurdità che, come dire, non dovrebbe aver bisogno di ulteriori commenti. Rispondo ad un'esigenza di alzare sempre di più il livello dello scontro, perché purtroppo in questo paese da anni c'è un conflitto permanente fra il Presidente del Consiglio e il potere giudiziario. In qualunque paese normale, chi facesse una cosa del genere ovviamente non si proporrebbe come il più indicato fra i rappresentanti potenziali del popolo, visto che costui si candida al Consiglio Comunale di Milano. Sì. Detto questo, però, sono chissà perché sicuro che egli non si tirerà indietro dalla competizione, in quanto queste sono prassi che nel nostro paese non sono affatto conosciute. E in questo clima c'è una notizia battuta poco fa dalle agenzie che si inserisce: è tornato in libertà Pierluigi Concutelli, l'ex leader di Ordine Nuovo. Ci spiega tutto Raffaella Calandra. Sì, proprio nei giorni della polemica sui magistrati uccisi negli anni di piombo, torna in libertà l'uomo nero, il comandante, ovvero Pierluigi Concutelli, l'assassino del sostituto procuratore Vittorio Occorsio, ucciso perché indagava sul terrorismo nero. Già ai domiciliari dal marzo 2009, dopo 32 anni di carcere e dopo un ictus, all'ex capo militare del gruppo neofascista Ordine Nuovo, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha riconosciuto la sospensione della pena per gravi condizioni di salute. Contattato da Radio 24 poco fa, il suo avvocato Emilio Siverio ci ha semplicemente detto di non essere stato autorizzato dal suo cliente ad alcuna dichiarazione, e probabilmente anche la coincidenza del momento del ritorno in libertà di Concutelli in piena bagarre su BR, magistrati e terrorismo, come sentivamo, spiega questo no comment. Era il 10 luglio del 1976 quando Concutelli, tornato in Italia dopo una latitanza in Spagna, uccise sulla Nomentana a Roma Occorsio, che aveva 47 anni. L'ex leader di Ordine Nuovo, sciolto nel 73, stava scontando in carcere 3 ergastoli non solo per questo delitto, ma anche per l'uccisione di Ermanno Buzzi e Carmine Palladino, 2 neofascisti considerati delatori. Da oggi è un uomo libero ed è tutto. tutto. Grazie Raffaella, un clima dunque pesante anche e soprattutto a causa delle amministrative. Milano e Napoli decisive anche per la tenuta del governo, soprattutto il capoluogo lombardo, dove ci sono state scintille ieri al confronto tra i candidati. Milano ci prova a riportare la campagna elettorale sui toni del dialogo e della politica. I cartelli rossi che inneggiano le BR nelle procure sono stati tolti frettolosamente dalle strade, mentre il consigliere Lassini non rinuncia alla candidatura, pur abbandonato dal sindaco e dal PDL milanese. Intanto ieri sera, complice una platea di soli scout, i tre principali candidati sindaco si sono visti faccia a faccia con un fuori programma. In una Milano dal clima rovente, a guastare la festa questa volta è stata Forza Nuova, che ha fatto irruzione nella sala. Grazie, arrivederci. Qualche minuto di caos, poi i tre candidati si sono confrontati sul palco. Letizia Moratti per il centro-destra, Manfredi Palmeri per il terzo polo e Giuliano Pisapia per il centro-sinistra. La serata con la possibilità di fare domande, rispondere alle domande in un clima decisamente pacato e sereno. La forza dell'impegno, dell'amore, dell'attenzione, dell'educazione mi ha fatto già dimenticare l'accaduto. Che solo con la calma, con la serenità si sconfigge anche la violenza di chi vuole sopraffare il confronto civile. Un auspicio non facile in una campagna elettorale sotto i riflettori nazionali. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il nuovo allarme sulla crescita lanciato da Confindustria in primo piano. Oggi al Senato l'audizione del direttore generale. Le posizioni restano distanti sul documento di economia e finanza e il direttore generale solleva dubbi sulla portata stessa delle manovre per il biennio 2013-2014. Ci sono in ballo 39 miliardi, molto più dei 25 miliardi stimati la scorsa estate. L'impegno è a maggior ragione gravoso oggi, in un contesto reso difficile dalla crisi finanziaria e dalla perdita di competitività che il nostro paese ha accumulato. Giampaolo Galli non usa mezzi termini. Per manovre come queste bisogna rivedere tutto il meccanismo di spesa, altrimenti i tagli potrebbero rivelarsi difficili o tradursi in rinvii. E spicca nelle parole del direttore generale il riferimento ai beni culturali, così come Galli spinge molto sul taglio agli investimenti, che scenderebbero a 27 miliardi nel 2012, mettendo in seria difficoltà la realizzazione delle infrastrutture. La Confindustria condivide l'obiettivo di pareggio di bilancio e non potrebbe essere diversamente. Senza stabilità non può esserci sviluppo, scrive il governo, e Viale dell'Astronomia aggiunge. È vera anche la relazione inversa: senza crescita è molto difficile conseguire la stabilità finanziaria. Di qui la conseguenza: le misure studiate nel Piano Nazionale di Riforme non sono sufficienti. I capitoli indicati sono quelli giusti, ma secondo gli industriali mancano i contenuti. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi ci sono le parole di Tremonti, che sta pronunciando proprio in questi minuti a Bruxelles. L'Europa ha bisogno di uno stress test per verificare se è possibile continuare il sogno europeo, ha detto il ministro dell'Economia. È un'ipotesi da prendere in considerazione anche l'opportunità di uscire dai trattati europei per farne uno nuovo, ha detto Tremonti, lanciando l'idea di un grande piano europeo per le fonti rinnovabili e la ricerca di energie alternative. Il ministro dell'Economia ha parlato appunto nel corso di un'audizione alla Commissione Affari Costituzionali del Parlamento Europeo a Bruxelles e ha detto che il piano potrebbe essere finanziato anche con gli Eurobond, l'emissione comune di titoli di Stato europei. Questa mattina invece erano stati diffusi i dati sulle immatricolazioni auto, tornate in calo. A marzo torna a perdere quota anche il mercato Fiat, che ha segnato una flessione del 20% anno su anno in marzo e del 19% nel trimestre. Parliamo della Libia adesso. In Italia oggi la visita del capo dei ribelli, il 2 maggio conferenza a Roma. Jalil nel pomeriggio vedrà nella capitale Napolitano e Berlusconi questa mattina ha visto Frattini. I raid della NATO in Libia non bastano a proteggere i civili, la situazione sul terreno è ancora molto difficile, finora nei combattimenti i morti sono almeno 10.000, più di 50.000 i feriti. Fa appello all'Italia il presidente del Consiglio Nazionale di Transizione Libico, Mustafa Abdul Jalil. Il capo dei ribelli libici questa mattina ha incontrato a Roma il nostro ministro degli esteri. L'unica via d'uscita è che Gheddafi lasci il potere, ha detto Frattini, che ha ribadito la necessità di trovare una soluzione politica al conflitto, questione di cui si parlerà nella conferenza internazionale in programma a Roma il 2 maggio. Confermiamo un impegno forte a mantenere e a rafforzare una pressione internazionale anche degli strumenti militari ma a riflettere su una soluzione politica. Jalil è stato ricevuto anche dal Presidente della Repubblica. Napolitano nel pomeriggio incontrerà quello del Consiglio Berlusconi. Domani sarà invece a Parigi per vedere Sarkozy. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. È prevista per oggi pomeriggio la camera ardente di Vittorio Arrigoni, il volontario italiano ucciso la scorsa settimana a Gaza. Amici ed attivisti hanno inoltre convocato una veglia di commemorazione sempre nella serata di oggi. Ma adesso noi vogliamo sottolineare un altro aspetto che riguarda i rapporti tra la Siria e gli Stati Uniti, nei quali irrompono nuove rivelazioni di WikiLeaks sui fondi che l'America avrebbe concesso all'opposizione siriana. Quali sono le conseguenze? Lo chiediamo ad Ugo Tramballi del Sole 24 Ore, che è in collegamento con noi. Ugo. Sì, buongiorno. Beh, conseguenze scarsissime, anche perché la notizia di WikiLeaks è nuova, ma riguarda una notizia molto vecchia, e cioè aiuti all'opposizione che l'amministrazione Bush dava, non l'amministrazione Obama, che ha cambiato completamente politica ristabilendo rapporti diplomatici con la Siria, mandando un ambasciatore. Naturalmente in un clima incandescente come quello siriano, nel quale l'opposizione in strada e la polizia spara, qualsiasi notizia sembra fare effetto sul regime siriano. Ma non c'è appunto nulla di particolare. Tra l'altro gli Stati Uniti non hanno nessuna intenzione, l'hanno dichiarato non solamente in Siria ma in tutto il mondo arabo, di non voler cambiare nessun regime arabo. Saranno democraticamente e lottando i popoli di quei paesi a cambiare il loro regime, non più l'amministrazione americana come ai tempi di George Bush. Ugo, le tensioni sono ancora fortissime in Siria. Sì, sono fortissime, perché il regime continua a non ascoltare, non legge i giornali, non ascolta la radio, non vede la televisione, cioè non vedono quello che sta accadendo nel mondo arabo attorno a loro. Il regime siriano dal punto di vista poliziesco e militare è il peggiore del Medio Oriente, solo secondo a quello di Saddam Hussein quando ancora c'era, e sono assolutamente convinti di poter reggere all'ondata, che non sarà un'ondata che è in corso adesso, che comincerà domani, ma è un'ondata che continuerà per i mesi e forse per gli anni a venire, fino a che il regime non cambierà. Grazie a Ugo Tramballi per la sua analisi. Noi restiamo all'estero, parliamo di un incendio che è scoppiato questa mattina a Barcellona, alla Sagrada Famiglia. Sono stati evacuati 1.500 turisti, è stata arrestata la persona sospettata di averlo appiccato, sembra uno squilibrato, dunque adesso la situazione è assolutamente tranquilla. La cronaca in Italia, innanzitutto con una notizia appena battuta dalle agenzie che arriva da Torino. Un anno e quattro mesi è la pena inflitta ad Anna Maria Franzoni per calunnia al termine del processo Cogne Bis. La sentenza è stata pronunciata proprio poco fa a Torino, la Franzoni non era in aula. Un peschereccio con a bordo oltre 400 persone, ma potrebbero essere anche di più, anche 500, si sta avvicinando a Lampedusa, scortato da 4 unità della Guardia Costiera. L'imbarcazione è a circa 10 miglia dall'isola, non riesce a mantenere la rotta e ad ogni virata si inclina pericolosamente. E noi ci spostiamo in Puglia. Morto in cella nel carcere di Bari a 22 anni, avrebbe dovuto testimoniare insieme ad altri due detenuti per le violenze subite nel carcere minorile di Lecce. Violenze compiute da 9 agenti penitenziari per 2 anni consecutivi. Ma Carlo Saturno non ha potuto andare davanti al magistrato perché si è impiccato pochi giorni prima. La storia non quadra, dicono i familiari di Carlo, lo hanno ucciso o indotto al suicidio. Come racconta Fabio Sillan, cugino di Carlo Saturno e portavoce della famiglia. Sentiamolo al microfono di Cristina Carpinelli. Erano 9 guardie carcerarie, erano 3 detenuti. Quindi ci sono altri 2 ragazzi in questo momento? Sì, sì. Che... non si sanno chi sono, perché non ci hanno fornito né nomi né cognomi. E loro comunque sono parte civile e potrebbero testimoniare? Sì, sì, potrebbero ancora testimoniare. Non capisco solo una cosa, che quando Carlo era in rianimazione, il martedì 5, doveva andare a testimoniare in tribunale a Lecce contro queste guardie, però è andato solo l'avvocato, perché lui ovviamente è in rianimazione, hanno rinviato la causa l'anno prossimo, quando andrà già in prescrizione. Io quello che vorrei capire, se ci sono 3 detenuti, perché ne manca uno, gli altri 2 non potevano comunque andare avanti col processo? E non si sa niente, quindi adesso andiamo avanti con le indagini, perché c'è l'autopsia, i risultati verranno depositati anche dai nostri medici legali fra 90 giorni. Perché noi ci chiediamo come mai è successo, perché io ho vestito Carlo quando dovevano fare il funerale, quando abbiamo fatto il funerale lunedì scorso. E quando l'ha vestito ha trovato segni lividi o segni di maltrattamenti? Allora, io l'unica cosa che ho potuto notare e che ribadisco, non ho visto un livido attorno al collo, da soffocamento, perché a quel che loro dicono dagli orari che hanno messo è stato mezz'ora appeso. Adesso noi da qui dobbiamo fare giustizia, perché lui comunque deve riposare in pace, perché lui non sta riposando in pace ancora. È morto il piccolo Tommaso, 1 anno e mezzo, il bimbo rom gravemente malato dalla nascita, è entrato suo malgrado nella polemica che ha visto contrapposti il comune di Brescia e le famiglie nomadi residenti nel campo di via Orzi Nuovi. Il piccolo è morto ieri nell'ospedale civile di Brescia. La famiglia, dopo che era stata staccata la corrente elettrica al campo nomadi necessaria per la sopravvivenza di Tommaso, aveva annunciato la volontà di sporgere denuncia nei confronti del comune. I funerali del bimbo sono fissati per domani al campo nomadi. E 13:19 in primo piano, un'ultima ora che arriva dall'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radio Cor. Il governo italiano dice stop al programma nucleare. La notizia, lo ripetiamo, è di poco fa. La moratoria già prevista nel decreto legge Omnibus diventa la cancellazione dei nuovi impianti. Nella prima parte del nostro GR abbiamo parlato dei manifesti antigiudici definiti inaccettabili oggi dal presidente Schifani. Vi abbiamo anche spiegato la storia di Concutelli, ex leader di Ordine Nuovo, tornato in libertà per motivi di salute. Tra pochissimo invece parliamo di Cuba, del via libera alle riforme economiche e di Fidel che esce dal comitato del Partito Comunista. Allora, ancora una buona giornata dalla redazione, Dan Rita D'Ambrosio. La svolta di Cuba, come detto, in primo piano. Noi abbiamo in collegamento, e lo ringraziamo, il giornalista Maurizio Chierici, editorialista del Fatto Quotidiano, che per anni ha girato l'America Latina per il Corriere della Sera. Buona giornata. Buona giornata. Maurizio Chierici, allora, è una svolta attesa, quanto attesa soprattutto l'addio di Fidel, che era un po' nell'aria, o no? Sì, l'addio di Fidel era nell'aria ed era anche logico, ma di grande svolta io non ne vedo, mi sembra quasi un'anticamera in attesa di qualcosa, perché le riforme hanno detto che saranno spalmate su 5 anni, e il fatto di che il partito unico resisterà per 2 mandati, chi non potrà essere più eletto per 2 mandati, che vuol dire che gli eletti nel partito unico potranno restare lì 10 anni. E poi i provvedimenti concreti sono piccoli provvedimenti quotidiani, economici, la compra e vendita di case e automobili, questo lo si fa di nascosto, non fa che regolarizzare una situazione che da 20 anni è così, con vari giochi e grandi acrobazie, si comprano e vendono le case, si comprano e vendono le automobili. Tutto questo all'aria di un'attesa per qualcosa che succederà fuori da Cuba, e questo qualcosa è la rielezione di Obama. Prima che si aprisse congresso del partito, Jimmy Carter, grande mediatore della Casa Bianca e dei democratici, è sceso a La Habana, si è incontrato con Raul, si è incontrato con Fidel. Devo dire che la loro figura fisica nella foto che li ritrae in un giardino mentre parlano dà quasi il segno del passato, 2 signori, 3 signori invecchiati, 2 signori arrotondati dall'età, e parlavano di cosa? Carter probabilmente rievocherà quello che è successo alla fine degli anni 70, quando lui presidente stava per normalizzare i rapporti con Cuba, subito dopo le elezioni, poi ha vinto Reagan e tutto è svanito. Quindi è una porta aperta verso cosa ancora non si sa. Chiari, c'è un'analisi davvero interessante la sua, dunque un'apertura, una mano tesa a Obama? È una mano tesa a Obama, ma questa lo è sempre al di là delle parole e al di là di molti avvenimenti, però bisogna stare attenti perché dall'altra parte i repubblicani si stanno riarmando contro Cuba, perché è una scommessa importante, non tanto per ragioni, Cuba ormai non conta più nulla strategicamente dopo la fine della guerra fredda, ma è una storia molto importante per quanto riguarda le elezioni interne americane, la conquista di 2 senatori e 4 deputati in Florida, tant'è vero che James Cason, che è stato un falco dei repubblicani, ha retto suscitando scontri, provocando pasticci e nello stesso tempo anche coinvolgendo interessi lontani, è stato rappresentante di Alavana nell'ufficio degli interessi cubano-americani. Jim Quezon ha lasciato Washington, si è stabilito da pochi mesi in Florida e si candiderà al Parlamento, quindi sarà un coagulo per tutti coloro che ancora si oppongono duramente alla Havana. E invece, Chiari, c'è una svolta economica effettiva, lei non la vede perché, come ha spiegato, è solo una regolarizzazione di cose che già avvengono? Sì, ci sono alcune cose che sono state fatte, per esempio 200.000 licenze per aprire iniziative private, ma poi dicono però che queste piccole aziende private che partono con piccoli contributi di Stato non possono capitalizzare, non possono agire sul mercato come se fossero aziende davvero private. Cioè, la lezione cinese che Pechino molte volte ha cercato di consigliare a Cuba non, ancora è lontana. Grazie a Maurizio Chierici, editorialista del Fatto Quotidiano, per questa analisi su Cuba. Torniamo alla notizia con la quale abbiamo aperto questa seconda parte, quella anticipata dall'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radio Coro. Il governo dice stop al programma sul nucleare. Nelle parole che ha pronunciato Tremonti da Bruxelles c'era ovviamente il segno chiaro di questa linea, ma adesso è arrivata la conferma ufficiale. La moratoria già prevista nel decreto legge Omnibus diventa la cancellazione dei nuovi impianti. È notizia di poco fa e ovviamente ne parleremo anche nel corso delle prossime edizioni. Ora parliamo di un anniversario. Era il 20 aprile del 2010 quando la piattaforma Deep Water Horizon esplose e poi affondò, provocando 11 morti, 17 feriti e quel fiume di petrolio che giorno dopo giorno è sfociato nel Golfo del Messico fino ad occuparlo quasi per metà. Si parlò di uno dei più gravi disastri ecologici della storia, la marea nera. Isabella Pratesi, responsabile conservazione del WWF Italia, al microfono di Roberta Pellegatta. La valutazione fatta purtroppo nei primissimi giorni dell'incidente rimane uguale, è il più gravoso incidente di sversamento di petrolio a mare ed è purtroppo un vero e proprio dramma ambientale. Ancora adesso si cerca di valutarne l'impatto economico ed ecologico e si stanno tirando le prime conclusioni, ma purtroppo sono soltanto delle indicazioni ancora molto generali. Si sa soltanto che una prima valutazione da tipo 5 miliardi di dollari il danno creato agli ecosistemi, ai servizi del Golfo del Messico e all'economia locale. Le conseguenze di questo oil spill potrebbero protrarsi per 50 anni, si legge. È verosimile questo margine di tempo, secondo lei? È assolutamente verosimile, anzi, secondo me è una previsione ottimistica. In realtà non abbiamo mai potuto studiare un disastro di questo tipo, un disastro a queste profondità. Addirittura adesso si sta valutando quanto quei porzioni di questi idrocarburi si entrano in atmosfera, quindi assolutamente difficile delimitare ad una zona geografica unita e compatta. Poi noi sappiamo che le catene ecologiche sono molto complesse, abbracciano territori molto lontani. Immaginiamo i tonni si riproducono nel Golfo del Messico, ma poi migrano andando attraversando l'Oceano Atlantico e quindi portando il loro inquinamento anche in zone molto più lontane di quelle di origine del disastro. Domani l'anniversario dunque, la BP, responsabile del disastro, ha raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per la costituzione di un fondo iniziale di 20 miliardi di dollari per il risarcimento dei danni. Ma l'amaro resta perché i manager BP hanno comunque incassato maxi emolumenti e maxi premi e la compagnia petrolifera, come se nulla fosse, ha già ripresentato domanda per riprendere le trivellazioni. Noi torniamo in Italia, per la precisione a Milano, per parlare di un brutto fatto di cronaca che molti di voi ricorderanno. Massacrò la fidanzata, ora va in permesso premio. Era il 20 luglio del 2002, poco meno di 9 anni fa, quando l'imprenditore della ristorazione Ruggero Jucher, oggi 44enne, uccise con 22 colpi di coltello da sushi la fidanzata 26enne Alenia Bortolotto. In primo grado, il 24 ottobre del 2003, Jucher evitò l'ergastolo grazie al rito abbreviato e incassò 30 anni per omicidio aggravato. In secondo grado, però, la difesa giocò la carta del patteggiamento in appello, all'epoca consentito e ora invece abolito. E così il 18 gennaio del 2005 la pena si ridusse da 30 a 16 anni per semi un'infermità mentale. Da questa pena, divenuta definitiva il 5 marzo del 2005, Juncker ha potuto detrarre 3 anni grazie all'indulto approvato dal Parlamento, in totale da scontare quindi 13 anni. Ogni detenuto che si comporta bene ha poi diritto ogni 3 mesi ad un ulteriore sconto. Nel caso di Juncker, ora il fine pena sul calendario è previsto per il giugno del 2013, tra soli 2 anni dunque. E ieri, dopo un primo rifiuto, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha concesso al detenuto Juncker il permesso di uscire dal carcere di Bollate e di trascorrere in libertà 10 ore dalle 9 alle 19 accompagnato da un volontario, con l'obbligo però di stare lontano dalla zona dove vivono i familiari della vittima e facendo tappa dal medico per un incontro di controllo. La notizia ha scatenato immediatamente le polemiche. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Chiudiamo con il calcio. Stasera in campo Roma e Inter per l'andata della prima semifinale di Coppa Italia. Panchine bollenti quelle di Roma e Inter, e allora ecco che anche la Coppa Italia può essere un'ancora di salvataggio per chi, come Leonardo e Montella, non è riuscito a cambiare il destino di una stagione nata sotto la luna sbagliata. In casa nerazzurra il legame, mai rotto con lo Special One Mourinho, sembra essersi rinsaldato dopo i 4 KO consecutivi tra campionato e Champions, ma Moratti si affretta a smentire le ultime indiscrezioni. Ma l'ho letto sul giornale, comunque non c'è niente con Mourinho. Sarà, ma immaginare un Inter con Mourinho in panca e Leonardo dirigente davvero non si fa peccato. Capitolo Roma. Lo sbarco degli americani alla guida del club rende davvero incerto il domani di un Montella che ha visto sfumare la qualificazione Champions e che non sembra più avere in pugno lo spogliatoio. Sarò valutato da chi lavora adesso in questa società, chi sta lavorando adesso, ma è normale che sia così, o chi magari probabilmente arriverà. Ecco perché stasera Leo e Vincenzo si giocano un po' più di una coppetta. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E domani sera l'altra semifinale d'andata, a San Siro si affrontano Milan e Palermo. È tutto per questa edizione, grazie regia a Filippo Aureggi. Ora c'è Italia in controluce, il GR torna alle 14. GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.